Beh, oltre a essere magico, anche imprevedibile. Pure il mercoledì su Radio Città Fujiko. Intanto porto i miei saluti a Silvia e Stefano, perché quest'oggi, per motivi di traffico intenso e vari ed eventuali, non riescono ad essere in diretta. Quindi avremo allo stesso modo comunque doppia presentazione, però sono qui in studio diretta. Ovviamente aspetto, se ci fosse la possibilità di una diretta telefonica, chiaramente sarà collegata nell'immediato la nostra prof, che intanto salutiamo. E nel frattempo, come ogni mercoledì, la parte letteraria, beh, si sa, viene aperta da un incipit. Un capolavoro anche per oggi è curato e condotto da Silvia Pioggia, la Sissa, l'incipit di oggi, mercoledì 8 novembre. Ciao, sono la Sissa e questo è l'Incipit, tutto in 20 righe. Il grande Oscar Wilde diceva: non c'è una seconda occasione per fare una prima buona impressione. E allora, che cos'è la prima pagina di un libro se non la sua prima occasione? Ci affidiamo sempre alla prima impressione. Quando conosciamo qualcuno, quando cambiare ascoltiamo l'istinto, tutte le volte che dobbiamo fare qualcosa di nuovo. E quindi, perché non farlo anche con le prime righe di un libro? Chissà cosa hanno pensato gli autori nel decidere che sì, quello era un buon incipit per il proprio manoscritto. Chissà se hanno pensato a che effetto avrebbe avuto su di noi potenziali lettori. Io sono molto istintiva e mi lascio attrarre dall'estetica del volume, dal fascino dell'autore. E voi invece, in base a che cosa decidete se e quale libro cominciare? Leggerò insieme a voi la prima pagina di alcuni volumi che mi hanno consigliato persone che solitamente hanno ottimi gusti, e scopriremo insieme se questa teoria delle 20 righe è un metro efficace per le nostre selezioni. Questi sono i primi paragrafi di Mary Shelley, Frankenstein. Pietroburgo, 11 dicembre 1700. Sarai lieta di sapere che la mia impresa, per la quale tu hai sempre previsto tante sciagure, è iniziata senza incidenti. Sono arrivato qui ieri e la mia prima preoccupazione è di rassicurare la mia diletta sorella sul mio stato di salute e sul mio morale, sempre più fiducioso nel buon esito di questa spedizione. Sono già molto a nord rispetto a Londra e mentre passeggio per le strade di Pietroburgo sento sulle guance la gelida brezza polare che mi stende i nervi e mi riempie di gioia. Comprendi questo mio sentimento? Questa brezza che giunge dalle regioni verso le quali sono diretto è per me come un annuncio di quei climi glaciali. Ispirati da questo vento carico di promesse, i miei sogni, a occhi aperti, si fanno più ferventi e più arditi. Cerco invano di convincermi che il polo è il regno del gelo e della desolazione. Continua a presentarsi alla mia immaginazione come un luogo di bellezza e di delizie. Là, Margaret, il sole è sempre visibile e il suo enorme disco che sfiora la linea dell'orizzonte diffonde un perpetuo splendore. Là, perché con il tuo permesso, sorella cara, concederò qualche credito ai navigatori che mi hanno preceduto, la neve e il gelo sono al bando e, navigando su un mare calmo, potremo forse essere sospinti verso una terra che per meraviglia e bellezza supera ogni regione finora scoperta nel globo. Cari miei lettori, Qui non vi devo dire niente, anzi mi sento un po' in colpa perché nonostante sia così famoso non l'ho mai letto neanch'io. Ma devo assolutamente recuperare, quindi fatelo anche voi. Come on my readers! Ah, come on my readers, fatelo assolutamente, è un capolavoro, è il primo tra l'altro di un filone letterario molto importante. Mary Shelley lo porta a termine, viene pubblicato che lei aveva solo 22 anni, Frankenstein, ne abbiamo parlato anche in occasione dello spettacolo all'Arena del Sole, è un tutti i tempi, eh. E intanto arriva anche una buona notizia, controordine compagni, a quanto pare, poi è imprevedibile il mercoledì, ma pare che si stiano divincolando dal traffico, Silvia e Stefano arriveranno forse a format iniziato, ma chiaramente, come ben sapete, la porta del voltiamo pagina è sempre aperta, ci mancherebbe, anzi, a maggior ragione, avremo quindi la nostra doppia presentazione, noi ci crediamo. Come sempre vi aspettiamo qua sui 103.1, un po' di musica, poi la pubblicità e comincia ufficialmente, dopo l'incipit di Silvia Pioggia, la rubrica letteraria dei 103.1. A tra poco. It's alright. If you try it, you'll like it.